conversation with you, with America. Buongiorno America di Stefano Pistolini. When the victim got on the bus and tried to find a seat, and I think he got turned down by one or two people, and then like I guess he just wanted to sit down because the bus started moving. Oggi parliamo di scuola perché, come vedremo, anche le scuole americane hanno i loro problemi, e che problemi, e parleremo di scuola, e poi a un certo punto ci troveremo un po' a un bivio in questa apertura di programma, se seguire una strada o seguirne un'altra. La voce che avete sentito è quella di un ragazzino che si chiama Divante. Divante è il buono di questa storia. La storia è una piccola storia che però sulle televisioni americane questa mattina sta diventando enorme. Prendendo il caffè, gli americani tornano a farsi vecchi interrogativi. Divante racconta la storia del quale è stato involontario o coprotagonista, una storia che ha luogo nei sobborghi di St. Louis, su uno qualsiasi, quelle migliaia, decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di autobus gialli che riportano a casa gli studenti dopo la giornata di scuola. Questo è l'audio della storia in questione, c'è anche un video ripreso dall'inevitabile onnipresente telefonino, ed è una storia piccola ma bruttissima. In sostanza un autobus occupato quasi esclusivamente da ragazzini, da studenti neri, teenager, 12, 13, 14 anni, sale un ragazzino bianco, non trova posto, ovvero i posti ci sarebbero ma non glielo lasciano, alla fine si scoccia un po', sposta uno zaino che un altro studente nero aveva sistemato al proprio fianco per occupare, diciamo, un po' impropriamente anche quel posto, e si mette a sedere. Quello, il proprietario dello zaino spostato, non la prende bene e comincia a picchiare con una certa violenza. Sono immagini piuttosto impressionanti, anche se di una piccola storia di una rissa scolastica, il ragazzino bianco. Poi altri applaudono, uno non contento dal retro dell'autobus avanza e dà la sua buona porzione, un altro ragazzino nero, una buona porzione di cazzotti al malcapitato ragazzino bianco. Alla fine Divante, che è un altro ragazzino nero, interviene e mette a sedere i cattivi, i bulli, li sistema e riesce a riportare un po' d'ordine a bordo di quell'autobus, sul quale evidentemente il conducente o aveva altri pensieri in testa o semplicemente non voleva immischiarsi in questioni tra ragazzini. La storia sta facendo appunto il giro delle televisioni americane perché ci si chiede in modo anche un po' provocatorio: ma quello che cos'era? Era bullismo pure semplice, oppure quella famosa questione della razza, no? Quella questione che Barack Obama a tutti i costi chiede che gli americani non rispolverino dal cassetto, tanti intellettuali che avrebbero voglia di farlo, perché c'è un presidente nero alla Casa Bianca e perché una certa parte di America questa cosa, nonostante tutto, non riesce a buttarla giù, e invece che quella questione forse dovrebbe tornare fuori. I media premono su questo argomento, anche perché questo argomento, come vedremo tra poco, è al centro anche delle provocazioni politiche della classe dirigente americana, dei politici eletti. Ma nel frattempo, però, come dicevamo, la scuola americana ha grandi problemi. Non a caso Barack Obama insiste perché si risistemino tante cose nella scuola americana, non ultima la sicurezza. This is one of those days that a superintendent or anyone in our community wishes not to wake up to. We have had the worst type of tragedy. Quella che sentite è la voce del signor Alberto Carvaglio, che di mestiere è il sovrintendente scolastico della zona di Miami-Dade a Miami, Florida, una delle zone più turbolente per quello che riguarda soprattutto la gioventù e anche alcuni crescenti conflitti razziali. È successo un fatto, in questo caso invece molto grave, non sberle tra ragazzini, ma una coltellata mortale allungata da uno studente ad un altro studente, morto poco dopo. Esistono le immagini dello studente che viene portato via dopo aver ucciso, per naturalmente futili motivi, un compagno di scuola. E l'America allora continua a interrogarsi su che cosa accade, su che cosa entra in quelle scuole, su quali micce siano costantemente sul posto punto di accendersi dietro i muri degli edifici che ospitano i ragazzi per buona parte della giornata, laddove una delle micce ha sicuramente il nome di razza. Del resto, anche i grandi non fanno così? I really hope they look at it carefully. My view is that by apologizing to the president right away, which I did. Intervistato oggi, in quanto si torna sull'argomento, questo è Joe Wilson, un membro del congresso repubblicano proveniente dalla Carolina del Sud, quello che ha dato del bugiardo a Barack Obama qualche giorno fa nel corso del discorso trasmesso in prime time televisivo praticamente a reti unificate dal presidente, in cui parlava di sanità e spiegava i principi della sua riforma, del progetto di riforma che sta cercando di rendere operativo. A un certo punto Wilson gli ha detto: stai dicendo delle balle, tu menti. Poi subito dopo si è scusato perché non era dato, non esistevano precedenti, perché tanto più in un contesto così importante un congressista si fosse mai rivolto al presidente attribuendogli un epiteto di questa gravità. Ebbene, si è fatta pressione soprattutto da parte dei media americani affinché queste scuse, oltre alle frettolose dichiarazioni dopo gli eventi, dopo il discorso, avessero un formato e una stabilizzazione maggiore, insomma che Wilson andasse al congresso e davanti a tutti i suoi colleghi, davanti al paese, ribadisse, no, la reprimenda nei suoi stessi confronti, dicendo di aver sbagliato e che quelle parole a un presidente non vanno dette. Ma Wilson ha detto: scusate, no, non ci penso proprio, mi sono già scusato, credo che il presidente abbia cose più importanti da fare, credo che il paese abbia cose più importanti a cui pensare. E allora a quel punto sono ripartite dalla sinistra americana, dall'America Liberal, i dubbi, no? In parecchi anchorman, conduttori televisivi, editorialisti si sono chiesti: ma insomma, vogliamo continuare a far finta di niente, o vogliamo dire che il fatto che un presidente nero sia alla Casa Bianca, nonostante l'entusiasmo che tutto il mondo abbiamo sollevato in quanto americani nel riuscire a compiere questa innovativa proposta, no, ma tutto questo in fondo c'è qualcuno che non lo sopporta, qualcuno a cui la questione continua a dare fastidio, al punto che da un momento all'altro, veramente, se ci fosse la miccia giusta, magari anche, no, un picchiaggio su un autobus scolastico, tanto per chiudere il cerchio, allora la questione potrebbe diventare in primo piano come dire, il fattore inatteso, l'invitato di pietra di questa stagione politica americana. E anche Barack Obama, forse, che non vuole portare il tema al centro della questione, farebbe bene a stare attento, a sintonizzarsi, e forse dovrebbe dire qualcosa in più. The young lady seems like a perfectly nice person. She's getting her award. What's he doing up there? He's a jackass. Ecco, invece non dovrebbe dire questo, che però sia ben chiaro, questa era la voce di Barack Obama, l'ha detto fuori onda, naturalmente l'hanno registrato. Io non lo so come un presidente ancora possa pensare di dire qualcosa senza essere registrato. Era ospite alla ABC, stava scambiando quattro chiacchiere con i presenti in studio prima dell'intervista, e gli hanno detto: ma l'hai visto Kanye West che ha fatto quella scena l'altro giorno agli MTV Awards? È salito sul palco, ha detto che era ingiusto che il premio venisse dato a quella cantante country bianca e non alla sorella, no, nera, Beyoncé. L'hai visto? E lui ha detto: ah sì sì, l'ho visto, che porcheria, è un jackass. Gli dà dello jackass, che vuol dire un po' un asino, no, un po' un burinazzo, insomma. Ma che ha fatto Kanye West? Naturalmente decontestualizzata la cosa, anche qui ha preso un formato gigantesco, per cui addirittura la Casa Bianca si è dovuta a sua volta scusare, dicendo: ma no, erano quattro chiacchiere fra persone prima di un'intervista ufficiale, figurati se Obama rivolge parole, epiteti del genere a quella che è una star assoluta, direi addirittura un modello di ruolo della cultura afroamericana. Intanto esce la notizia che un comitato apposito, il comitato delle regole del congresso, ha sancito un nuovo regolamento verbale per ciò che può essere detto e non detto all'interno del congresso americano. Per esempio, al primo posto non puoi dare più del bugiardo al presidente. Adesso l'hanno messo per iscritto, così Joe Wilson, se lo rifà, ci penserà due volte e andrà incontro alle sue conseguenze. Però l'aria che tira, vi dicevo, è strana. Lo ha capito perfino uno molto esperto, di solito non fa uscite particolarmente a fuoco, ma questa volta il vecchio Jimmy Carter, secondo noi, ha detto una cosa giusta. I think an overwhelming portion of the intensely demonstrated animosity toward President Barack Obama is based on the fact that he is a black man. Ha detto c'è grande inquietudine in America, ci sono dimostrazioni che stanno andando in scena per attaccare le politiche Barack Obama e nessuno mi toglie dalla testa che alla base di tutto c'è una questione razziale, c'è la questione che lì c'è un nero alla Casa Bianca e dopo gli entusiasmi, dopo i fuochi artificiali, adesso l'America ci sta riflettendo e qualcuno non ha ingoiato, non ha digerito la notizia. È la razza il fattore sorpresa di questa stagione della politica americana? Saranno i fatti a farcelo capire più che i pareri degli opinionisti, una scintilla che un giorno mai dovesse così da sola accendersi. I want you so bad, babe. I want you so bad, it's driving me mad, it's driving me mad. I want you, you know I want you so bad, babe. I want you, I want you so bad, it's driving me mad, it's driving me mad. I passeggeri guardavano dai finestrini e vedevano uomini in canottiera, in t-shirt sportiva, in uniforme, in giacca e cravatta. Piangevano, salutavano con la mano, stavano sull'attenti, si toglievano gli elmetti di protezione dalla testa per portarli al cuore. Vedevano donne in calzoncini, con gli abiti da casa oppure con quelli della festa. Singhiozzavano, si inginocchiavano, si coprivano il volto e sollevavano i figli come a dire loro: «Guarda Robert Kennedy». Segui il suo esempio, è così che dovresti vivere. Parliamo di libri oggi, anziché di carta stampata quotidiana, anziché di grandi testate in edicola tutti i giorni, perché stanno succedendo un paio di cose, anzi più di un paio, poi ci torneremo anche nei prossimi giorni. Del resto ne parla anche Fox News, ce l'abbiamo acceso sotto gli occhi. Si parla di un libro firmato niente meno che da Geraldo Rivera, uno dei più contestati anchorman della televisione americana, adesso su posizioni molto conservatrici. Ha scritto un libro lui per spiegare e sostenere come la crescita percentuale della etnia ispanica in America sia destinata a modificare anche il disegno della rappresentanza appunto politica a Washington. Ma invece le parole che abbiamo ascoltato poco fa, la lettura così anche toccante, commovente, è tratta da un grande libro firmato da Thurston Clarke, è un libro pubblicato per fortuna anche in Italia dal saggio. Si chiama L'ultima campagna, sottotitolo Robert Kennedy, Bob Kennedy e gli 82 giorni che ispirarono l'America, ovvero gli 82 giorni di campagna elettorale che il fratello di John Fitzgerald Kennedy mise in atto prima di venir bruscamente fermato da una pallottola in un albergo di Los Angeles. Ne parliamo perché la famiglia Kennedy, come dire, in questo momento naturalmente è al centro dell'attenzione mediatica, purtroppo per una brutta motivazione, ovvero la morte di Ted Kennedy, e anche perché c'è un libro in uscita proprio a riguardo di Ted Kennedy, di cui ora vi diremo, ma come dire, per accontentarsi delle letture in italiano, per chi non vuole avventurarsi in acquisti in librerie internazionali o online, il consiglio relativo a questo bellissimo libro di Clarke, che è un giornalista di Vanity Fair e del New York Times e che ricostruisce in modo al tempo stesso suggestivo però anche maniacale nei particolari ciò che Bob Kennedy riuscì a fare soprattutto dal punto di vista dell'immaginario americano. americano in quei, tre mesi scarsi di campagna elettorale, ovvero ciò che riuscì a risvegliare in un immaginario che si era già intorpidito dopo il primo sogno legato a suo fratello John, e nel pieno ormai di un dramma nazionale come la guerra in Vietnam. Ci sarebbe riuscito di nuovo 40 anni più tardi Barack Obama, portando americani che non votavano abitualmente a votare e a sospingere fino alla Casa Bianca la sua candidatura. Ma qui c'è, come dire, il fatto originale, no? La madre di tutte le campagne democratiche d'America nel XX secolo, ovvero quella di Bob Kennedy, ricostruita con parole davvero toccanti. E tra poco ascolteremo anche un altro breve estratto dal libro, però prima vi voglio segnalare l'uscita avvenuta ieri negli Stati Uniti della autobiografia di Ted Kennedy. Si chiama True Compass, che vuol dire l'autentica bussola. È un libro molto corposo, con più di 500 pagine, costa $35, è andato sparato in testa alle classifiche di vendita d'America. È una autobiografia in cui Kennedy cerca di ricostruire il proprio percorso nel modo più esplicito, diretto possibile. Naturalmente è sempre problematico per un politico parlare soprattutto dei propri errori, ma almeno in relazione al fatto più oscuro, più grigio del percorso pubblico di Ted Kennedy, ovvero l'incidente automobilistico nell'isola di Chappaqiddick, in occasione del quale morì per colpa, per responsabilità diretta di Ted Kennedy, la sua segretaria Mary Jo Kopechne, è molto chiaro, parla fuori dai denti Ted Kennedy, ne riassume sia i fatti e anche le sensazioni che avrebbero da quel momento in poi riempito la sua vita. È un libro naturalmente straordinariamente complesso, che speriamo presto di vedere anche negli scaffali italiani e che darà probabilmente una prima misura, quella soggettiva, al ragionamento a determinare il significato e il peso della figura di Ted Kennedy nella storia contemporanea americana. Però ripeto, intanto c'è un libro importante da leggere sui Kennedy, scritto da una firma autorevole, L'ultima campagna, vi ripeto, è il titolo, per ricostruire, per rivivere momento per momento, ispirazione per ispirazione, quegli 80 giorni o poco più in cui Bob Kennedy fece sognare gli Stati Uniti. La cosa più sconcertante dell'assassinio di Robert Kennedy fu il fatto che nessuno fosse sconvolto, compreso lo stesso Kennedy. Hayes Gori scrisse che, guardando in alto dal pavimento, Robert Kennedy, ancora lucido, aveva un'espressione spiritata che nessuno che l'avesse conosciuto potrà mai dimenticare. Era totalmente cosciente di quello che gli era successo. Il giornalista Peter Hamill scorse una specie di dolce accettazione percorrergli il volto mentre giaceva sul pavimento. Come sempre, erano gli occhi a dire tutto. Invece di chiedere cosa è successo, sembravano dire: allora ci siamo. Buonanotte, Cina. Chissà quali sono gli effetti di questo fenomeno Kennedy, no? Che non minaccia per niente di tramontare dall'immaginario occidentale. Quali potrebbero essere gli effetti in Cina? Chissà quanto lo conoscono, che cosa se ne dice. Sarebbe interessante provare a capirlo, e magari lo faremo nei prossimi giorni, perché, come sapete, in coda al nostro appuntamento quotidiano abbiamo un pandan, no? Un pandan che viene poi dalle precedenti esperienze qui a Radio 24. Si chiamava Jefferson Ming una volta, adesso esiste uno spazio chiamato Buonanotte Cina, in cui proviamo ad analizzare il senso della Cina come soprattutto presenza politica internazionale e alcune storie che da là provengono, e spesso difficili da decifrare, da comprendere, da tradurre magari nel nostro linguaggio pubblico. Per esempio questa ormai infinita protesta nella regione autonoma del Xinjiang, al nord-ovest della Cina, ve ne abbiamo parlato tante volte, che ha preso adesso un formato nuovo, assolutamente inquietante, che difficilmente non traverserà fenomeni imitativi, per quanto se ne sta parlando, soprattutto se provate a consultare i siti, anche in lingua inglese, di informazione sull'Oriente. In sostanza, 75 persone appartenenti a 7 diversi gruppi terroristici che, secondo la stampa cinese, avrebbero terrorizzato la popolazione utilizzando delle siringhe vuote, sono ora state arrestate. Tre sono già anche state condannate. Uno aveva semplicemente 19 anni, è stato condannato a 15 anni per aver affondato un ago ipotermico nelle natiche di una donna il 28 agosto scorso. C'è anche quasi un brivido ridicolo in questa notizia, ma che naturalmente poi va a appartenere, no, al globale senso delle grandi paure, no? Una siringa, anche una siringa vuota, oggi è uno strumento di terrore. La psicosi dell'attacco con la siringa è esplosa a Urumqi, la città più importante del Xinjiang, all'inizio di settembre. 531 persone sono fatte ricoverare in ospedale denunciando di essere stati attaccati da questa arma nuova a tutti gli effetti. 171 mostravano segni di essere stati colpiti da un ago, e queste appunto sono notizie provenienti da una Cina che in questo senso non è così vicina, no? Sta seguendo un proprio percorso anche di inquietudine, di malessere, di disagio sociale, un disagio che sfora perfino in quelle che saranno le grandi celebrazioni per il 60° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, che si terranno tra poco, il giorno 1 ottobre, se è vero che anche gli aquiloni saranno vietati a Pechino nel quadro delle misure di sicurezza decretate dalle autorità. No, no fly zone, non si vola sopra Pechino, ma insomma è stupisce un po' capire che non si vola veramente, non volano neanche gli aquiloni, ormai un oggetto che porta con sé tutto un immaginario a sua volta globale che ha un po' un sapore di libertà, ma queste sono notizie appunto da decifrare, comprendere, digerire in un certo senso per capire quale sia il pandan, quale sia la buonanotte, no, rispetto a un buongiorno che vediamo tutti i giorni. Perché questo è il nome di questo spazio. Buongiorno America, io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Antonella Migliaccio, in regia Valerio Rocchetti a Roma e Fabio Cantadori a Milano. La mail è buongiornoamerica@radio24.it. Lo spazio Facebook porta il vecchio nome, redazione Jefferson 3. Iscrivetevi e partecipate ai dibattiti. Andiamo in replica 10 minuti dopo mezzanotte, siamo in diretta alle 13:30-32 domani qui su Radio 24. State bene.